non se ne può più. Lunedì usciamo, dai, lunedì porto le bimbe a parco, sì, farò uscire con la stellina, sono impazzito. Lunedì mi invento qualsiasi cosa per scicolare. Sì. Se vado a fare la spesa io lunedì, no, non ce la faccio più. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ci è arrivata una richiesta dalla società del calcio Napoli per poter fare gli allenamenti. De Laurentiis mi dice che possono fare gli allenamenti avendo tre campi di calcio disponibili a Castel Volturno, avendo un distanziamento anche degli atleti di 20 metri. Possono fare gli allenamenti per fasce orario, senza l'uso comune delle docce. A me pare che ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra. Non è possibile giuridicamente immaginare che sia Vincenzo Spadafora a decidere alcunché. Zero. Decide più Lotito di lui, va. In settimana, da questo che ho sentito nelle ultime ore, potrebbe uscire un'altra ordinanza dal ministro dello sport dove si può anche bloccare il campionato definitivamente. Questo non è nelle loro competenze. La FIFA, UEFA, ma soprattutto anche la FIGC ha spiegato molto bene che i campionati devono essere finiti. Sì, c'è una compattezza, poi ci sono evidentemente delle opinioni in parte differenti che fanno riferimento anche alle sensibilità diverse delle singole persone. C'è un'unità ritrovata, però insomma, poi si tratterà di capire come e se mai si potrà andare avanti in questa stagione. Buon pomeriggio a tutti, 800 24 00 24, microfoni aperti per voi fino alle 15, 349 238 6666, aspetto i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Buon pomeriggio a tutti, in questo giorno uno della ripartenza, si spera senza ricadute, che è anche ripartenza del mondo dello sport e del calcio. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Hai visto che bella la Pellegrini che riparte dalle basi dopo sei settimane senza piscina? Ho letto. È un video molto carino, poi lo sentiremo. Sì, eh. Certo, sì. È un modo secondo me per declinare una serie di problemi e di disagi in una maniera corretta e ironica. Sì, anche perché Federica Pellegrini è stata trasformata nella capopopolo anticalcio in questo dibattito anche un po' inutile che è stato creato. Esatto. Tra l'altro è stato creato trasformando, questo mio parere, lo sport italiano in una sorta di guerra tra poveri. E invece guarda, oggi è tornata a nuotare Federica Pellegrini e abbiamo visto il video girato dal suo allenatore, sono tornati a correre i calciatori del Sassuolo. E io sono contento per tutti e due, con buona pace del ministro Spadafora. Spero che da qui in poi si torni a un minimo di ragionevolezza. Questo però è il mio parere, Pier. Sì, io tra l'altro, cioè, il ministro sa benissimo, ne ho anche scritto anche eventualmente per poterne parlare anche su Instagram oppure in radio, dove vorrà lui. Io credo che non ci debba essere guerra fra poveri e che ci debba essere una genuinità. Ecco, la genuinità deve essere quella di cercare di ripartire. Poi l'abbiamo detto mille volte, lo diciamo dal giorno zero, il virus così come si è presentato e ha interrotto la stagione è molto potente, speriamo che lo diventi di meno e alla fine deciderà lui, nel senso che se non ci saranno le condizioni lo sport si deve fermare come tutti gli altri settori produttivi si devono fermare. Altrimenti si va avanti senza farsi troppi problemi. Altrimenti si va avanti e sarebbe veramente completamente sbagliato, lo dico. Quello che non mi piace, ripeto, è la presunta non genuinità, cioè non remare tutti nella stessa parte. La parte verso la quale insomma, tutti dobbiamo remare è provare a ripartire, perché riparte la vita, perché ripartono le fabbriche, perché ripartiranno le scuole. E perché poi, riparte anche lo sport. e riparte certo, anche il calcio. Guarda, scrive un amico, ma il calcio sopra la legge, non hai capito nulla. No, hanno ricominciato a nuotare, anzi, a correre, ad allenarsi. Gli atleti, che non sono poveri nemmeno loro, come Federica Pellegrini, si sono costruiti con il loro lavoro e con il loro talento una grandissima carriera, e ha ricominciato ad allenarsi il calcio. Amico mio, non è sopra la legge, è uguale a tutti gli altri. Sotto la legge, però, nemmeno sotto la legge, perché in questo momento addirittura in certi momenti sembra che il calcio sia sotto la legge, cioè che ci sia che debba scontare una sorta di pregiudizio o di etichetta. Io ripeto quello che così baroccamente dico da un po', cioè se Burioni, ma dico Burioni, potrei dire Rezza, potrei dire la Gismoghi, chi vi pare, scegliete il vostro virologo del cuore, se l'Istituto Superiore di Sanità, se l'Organizzazione Mondiale per la Sanità viene a dire che non ci sono i presupposti, non si giocherà. Ci si ferma. Per me questo è indiscutibile. Come non si andrà in ufficio o in fabbrica o in tanti altri posti. Ma infatti c'è un tempo tecnico che serve per provare a ricostruire un'idea di stagione. E hai detto benissimo, non è una guerra fra calcio e altri sport. Il calcio, lo sappiamo, con i suoi introiti, con le sue tasse, con la sua mutualità, contribuisce allo sviluppo dello sport italiano, contribuisce alle casse dello Stato. E lo stipendio di Cristiano Ronaldo ci può far pensare serve anche agli altri, serve anche renderci agli altri invidioso, ma sono pure soldi che al 50% finiscono nelle tasse dello Stato. Quindi se si taglia quello stipendio e se si perdono 700 milioni di introiti all'anno perché non finisce la stagione, e lo Stato conseguentemente ha un documento, quindi io credo che veramente evidentemente sì. Pier, e adesso salutiamo anche l'ospite che ci ha raggiunto, chi persegue la strada del chiudere per chiudere saprà anche dove tirar fuori centinaia di milioni di euro per riparare i danni. Allora 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Partiamo dal calcio, ma alle 14:35 vi invito a restare qui perché abbiamo Julio Velasco per una bella chiacchierata a 360 gradi parlando di pallavolo e non solo. Domani, tra gli altri, nel mondo del calcio, carissimo Pier, ricomincia il Bologna. Saluto Claudio Fenucci, che ne è l'amministratore delegato. Ciao, Fenucci, buon pomeriggio. Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti, buongiorno anche al radioascoltatore. Come avete... Interrompo sì. Claudio, perché sono passati, ci siamo non dimenticati, perché non è dimenticabile, magari l'avevi messo in scaletta dopo, però oggi è il 4 maggio e quindi... Ci facciamo alla chiusura. Il pensiero di quegli eroi è con noi e che insomma ci ispiri verso il meglio, verso il bene. Mi fai chiedere a Fenucci come è stata accolta la svolta di questo folle lungo fine settimana? Abbiamo chiuso pensando che non si ricominciasse ad allenarsi e questa mattina ci siamo trovati con tutti in campo. La cosa nasce dal provvedimento governativo. Mi permetto di correggere Luigi, per Luigi quando parla che i virologi ci daranno le indicazioni. Alla fine è la politica che deve dare le indicazioni, perché è la politica che fa la sintesi delle problematiche legate all'epidemia, ma anche delle conseguenze sociali, economiche, psicologiche. Quindi non credo che la politica possa abdicare al suo ruolo di indirizzo. E quindi credo che debba, proprio non solo nel calcio ma anche in altri settori dell'economia, deve riprendere il suo ruolo tradizionale. Detto questo, è nato dal fatto che appunto c'era un provvedimento del governo che consentiva la ripresa delle attività a qualsiasi sportivo, a qualsiasi cittadino. Giustamente sembrava strano che un calciatore, per dirla in maniera molto semplice, potesse andare a correre in un parco pubblico e non correre dentro un centro sportivo. Abbiamo dialogato con il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, è stato molto sensibile, credo ha fatto un provvedimento opportuno che poi è stato ripreso. Stamattina è arrivata però una circolare del Comitato Tecnico Scientifico, per cui un provvedimento semplice di apertura del centro, senza spogliatoi, senza palestre, semplicemente per far correre degli atleti, diventa una circolare di 32 pagine. Che adesso dovremmo andare a esaminare, verificare e giustamente cercare di ottemperare per quanto sì, è possibile. Gli ho dato un'occhiata e tra l'altro paradossalmente mi era sembrato molto più dettagliato il famoso protocollo poi bocciato mandato dalla Federcalcio, ma io non faccio né il medico né lo scienziato, ma così è a una prima visione. Ma avete la sensazione, lei la sensazione, Fenucci, un po' che il calcio sia rimasto ostaggio in queste due settimane di un dibattito più demagogico che pragmatico? Beh, penso sia evidente, insomma, io credo che il calcio non si è mai messo in contrapposizione con altri sport. La nostra comunicazione in passato può essere stata confusa, magari non unitaria, come lei in questo periodo in cui effettivamente abbiamo delegato la federazione e noi la Lega per esprimere posizioni unitarie e che diano la visione del sistema. Però non c'è stata mai nessuna contrapposizione con gli altri sport, anzi, poi, come ricordavo bene per Luigi, insomma, non dimentichiamoci che lo sport italiano vive sul 32% delle risorse delle tasse che sullo sport vengono incassate dal governo e trasferite al CONI e a Sport e Salute, quindi gran parte di queste risorse vengono dal mondo del calcio, quindi siamo consapevoli che abbiamo anzi un ruolo guida sotto il profilo economico dello sport italiano. È ovvio che in questo momento magari la demagogia e il populismo aiuta a vedere e identificare questo come un settore di ricchi e privilegiati, in realtà non lo è, è un settore che crea spettacolo, emozioni, che fa parte della nostra vita sociale, che ha dei contenuti economici ormai da azienda dello spettacolo. Sì, che credo, poi non so cosa ne pensa Pierre e lo stesso Claudio Fenucci, non possa essere trattato banalmente con un sono il ministro dello sport e non sono il ministro del calcio, ultimo scritto del ministro Spadafora ieri su Facebook, ma questa è una mia opinione. No, ma non può essere trattato in questo modo perché al di là dei contenuti non stiamo a richiamare i 24 milioni di appassionati e quante persone seguono attivamente il calcio, cioè i 13 milioni di italiani che seguono il calcio con passione e fedeltà da tempo, tramandandosi, diciamo, da generazioni questa passione. E ricordiamo solo che è un'industria che tra diretta e indotto fattura 14, contribuisce all'1% del PIL del paese, insomma, fattura 14 miliardi di euro, considerando il settore indotto allargato, tutto ciò che gira intorno al calcio, direttamente è un'azienda da 4 miliardi di fatturato, quindi almeno meriterebbe rispetto per i numeri e per i contenuti economici che genera, al di là del fatto sociale che invece secondo me è preeminente. Pierre? Sì, ma mi sembra che siamo completamente d'accordo. Tra quel riferimento al fatto che devono essere virologi è un modo per dire che nessuno, e tantomeno il calcio, può sentirsi superiore alla scienza, alla sicurezza e alla salute. Quindi questo è un principio assolutamente fondamentale. Nessuno deve farsi male nell'andare a giocare una partita di pallone o nell'andare a commentare, faccio proprio un esempio che può riguardare me, o nell'andare a vedere una partita di pallone. Questo è il punto di partenza. Poi che la politica debba avere quel ruolo, questo è indiscutibile. Infatti questo è il momento più difficile, perché la fase 1, che secondo me è stata gestita anche bene complessivamente, nel senso che è stata fatta la cosa giusta da fare, che era chiudere ed evitare guai, o perlomeno evitare guai peggiori, e adesso lascia il posto alla fase 2, che è una fase oggettivamente complicata, della quale però il calcio deve essere trattato come le altre industrie del paese. E io dico sinceramente, tante volte si parla di business, aspetto economico, non è una vergogna. Cioè, quello che dice Fenucci è vero, l'1% del PIL è oggettivo, lo Stato, il paese ha bisogno di quell'1%, al di là del fatto che poi è un 1% che ha un valore anche psicologico, ha un valore anche di normalità, ha un valore anche di identità di popolo, no? Non è un 1% con tutto il rispetto della siderurgia o del non so, dei bulloni, è un 1% che parla al paese, che dà un senso di normalità, che costruisce, si porta dietro un anche racconto, dei significati simbolici, ecco, un'appartenenza. Detto questo, visto che abbiamo scoperto che il calcio sta, tra virgolette, sulle scatole a qualcuno, probabilmente, no? Che magari può essere in certi momenti populista o demagogico il fatto di dire ma che volete voi del calcio, forse qui un po' di autocritica va fatta, no? Cioè, e anche di operazione di marketing, perché veramente anch'io sono rimasto colpito da quella, secondo me, quel modo anche un po' di travisare le parole di Federica Pellegrini, che era intervenuta proprio da noi e che sì, non ha niente contro il calcio. Non aveva attaccato il calcio. Ma assolutamente, ma la distinzione calcio... Ci si è fermati alle prime 10 parole perdendosi il resto del suo ragionamento. È proprio assurda la distinzione tra calcio e altri sport, perché da tutti i punti di vista sono ambiti strettamente collegati e correlati. Poi è ovvio che i numeri siano diversi. I numeri sono diversi perché il mercato è diverso. Allora, amici miei, andiamo a vedere le gare di scherma, appassioniamoci agli altri sport, cioè, questo è la partita, no? Oh, tra l'altro il calcio ha dato anche buona prova di sé in queste settimane difficili. Abbiamo raccontato di tante iniziative, lo ha fatto anche il Bologna che si è attivato in queste settimane, lo ha fatto, credo si chiami We Are One, l'iniziativa del Bologna che è coinvolto, leggevo sul sito i suoi partner commerciali che si occupano di food and beverage, ha fatto una serie di distribuzioni di prodotti di prima necessità, di kit sanitari, questo perché il calcio è stato poi molto presente anche sul territorio. Poi avrà mille altre colpe da scontare, però lo diciamo. Voglio chiedere a Claudio Fenucci se si aspetta per il 18 davvero il via libera agli allenamenti, quelli veri, almeno a gruppi sempre più allargati. Ma non lo so, al momento è molto, molto difficile. Ovviamente noi abbiamo espresso una linea unitaria, che è quella che, della Lega, che può tornare a giocare assolutamente nel rispetto, perché nel rispetto delle condizioni sanitarie, perché come diceva Pierluigi, noi abbiamo degli obblighi, un dovere morale e anche delle responsabilità giuridiche, quindi siamo i primi a voler ripartire in condizioni di assoluta sicurezza. E poi possa significare rischio zero o meno, non lo so, perché il rischio zero non ci sono forse neanche per più 4 milioni oggi di italiani che stanno tornando al lavoro, però sicuramente condizioni di massima sicurezza a tutela della salute dei nostri atleti e dei tesserati e delle persone che lavorano. Ma anche perché se si insegue il rischio zero non si parte mai. Tornato prima anche al calcio e alla situazione con gli altri sport. Il calcio poi non è solo il calcio professionista. Dietro questa piramide ci sono i sogni di 1,5 milioni di tesserati che giocano a calcio e vivono la loro vita legata al calcio. Per cui poi noi pensiamo sempre al calcio come al fenomeno delle 20 società di Serie A e le altre del mondo professionista. In realtà c'è tutto il movimento dietro che si riconosce in queste società. Quindi è un fenomeno che non può mai contrapporsi a quello degli altri sport, proprio perché lo sport è passione, amore per il proprio fisico e per la salute, eccetera, e anche un coinvolgimento di ideali sportivi, il senso di comunità, che è un po' quello che, come richiamavi prima giustamente, stiamo cercando di fare con il Bologna. Insomma, il Bologna di Saputo, che è una proprietà forte, deve poi essere una roccia della comunità in cui si stringe intorno, insomma, una comunità di persone che condividono questa grandissima passione. Abbiamo fatto, come tante società, molte iniziative sul territorio, continueremo a farlo, portiamo avanti ancora adesso il progetto dello stadio, perché penso che fare un investimento nello stadio con la ristrutturazione dell'area, che è un'operazione a quasi 100 milioni in sinergia con il Comune di Bologna, possa rappresentare in questo momento proprio un segnale di ripartenza verso un futuro diverso e anche una ripresa dell'economia legata allo sport e al calcio italiano. Poi tra l'altro, scusate, c'è un elemento che secondo me è stato sottolineato poco, che se volete proprio riguarda la tempistica, che se anche si decidesse di chiudere la stagione, noi comunque a luglio, se pensiamo di fare una stagione 2020-2021, avremo i ritiri, le amichevoli, non è che a luglio la gente non si allena. Ma è proprio questo il tema, il virus non è che va in vacanza ai Caraibi quest'estate e non torna a settembre-ottobre. Noi dovremmo comunque convivere con la situazione, che speriamo che sia migliorativa sotto il profilo della salute pubblica, quindi del tasso di contagio, cioè di penetrazione di questa epidemia. Però lo avremo, quindi al di là di quello che si deciderà, sappiamo già che una parte anche della prossima stagione è in parte sotto il profilo economico compromessa, perché probabilmente gli stadi rimarranno chiusi anche per la prima fase della prossima stagione. Quindi la ragionare solo sul 18 o il 20 è sciocco, secondo me. Va vista in un'ottica ovviamente di medio periodo, con tutti poi gli scenari A e B che possono aprirsi, le conseguenze sotto il profilo sportivo ed economico. Ha sentito Sinisa in questi giorni, in queste ore? Sì, ho sentito, sta bene, vorrebbe anche lui, non vede l'ora di ricominciare, per quello che ovviamente ha sofferto lui in termini di isolamento, diciamo, credo che la quarantena sia stata una passeggiata, insomma, visto quello che ha passato lui. Tra l'altro era più avanti di tutti nella capacità di adattarsi anche al fatto di allenare a distanza, cosa che poi tutto il resto del mondo del calcio ha imparato sulla sua pelle negli ultimi due mesi. Voglio ringraziare Claudio Fenucci, grazie e buona fase 2. Ciao. Grazie a voi, grazie e buona giornata. Adesso andiamo avanti. Se noi non iniziamo adesso il campionato, parlo di giugno, possiamo iniziare anche o possiamo finire questo campionato quando sarà possibile di riprendere l'attività, parlo anche di agosto, fine agosto o settembre, sfruttando anche il modello del mondiale di Qatar. Non lo so, secondo me quello che io credo sia giusto è di mantenere, diciamo, il format del campionato, perché secondo me questa è la cosa migliore a cui la gente è abituata e che la gente preferisce, io credo, no? Allora, l'ultimo era Urbano Cairo, che è stato ed è stato certamente, oltre che arruolato, è stato certamente uno dei fautori dello stop al campionato in queste settimane. Saluto Matteo Pinci di Repubblica, ciao Matteo. Ciao Giovanni, ciao Pier, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Allora, ci aiuti a capire cosa sta succedendo in queste ore, perché è una situazione, lo dico, che si va muovendo minuto per minuto, così come è stato nelle ultime 72 ore? Sì, è vero che si va muovendo minuto per minuto, più o meno l'avete già riassunta. Il senso è questo: dall'apertura delle regioni di fatto è partita una piccola valanga che ha convinto prima il Viminale, poi più o meno anche il ministro dello sport Spadafora a consentire di fatto gli allenamenti sempre di tipo individuale, no? In cosiddetto in modalità parco, come dicono le società tra loro, ossia cambiandosi a casa, facendosi la doccia a casa o nelle stanze per chi ha il pensionato, comunque non nello spogliatoio, anche alle società di calcio. Resta però così da ieri, credo, sospesa un'impressione che percepivo ascoltandovi anche dalle parole di Claudio Fenucci, ossia che non sia affatto scontata la ripresa, che non sia affatto scontata nemmeno tornare ad allenarsi a livello di squadra, perché dal Ministero dello Sport, l'ultima volta ieri sera, continuano ad arrivare segnali abbastanza di chiusura, ecco, della chiusura piuttosto evidente al calcio in generale. In realtà non si parla solo di Serie A, anche se poi ovviamente il campionato che avrebbe più facilità a ripartire perché è in grado di sostenere i costi di esami, di tamponi, di un protocollo medico che dovrà prevedere inevitabilmente controlli molto frequenti, anche solo a livello di test sierologici, e quindi è inevitabile che insomma si parli di Serie A. Si percepisce una certa così, una certa, diciamo, chiusura. Ma no, non bisogna neanche leggere tanto tra le righe, basta leggere quello che viene detto e scritto. Però vorrei capire chi deciderà alla fine, perché non si può nemmeno ignorare che cosa è successo tra mercoledì e domenica, e cioè chiaramente con una posizione del ministro Spadafora. Noi continuiamo a parlare di lui perché tecnicamente dovrebbe essere il ministro dello sport e quindi attento fino all'ultimo istante possibile a provare a rimettere in moto tutta la macchina. Poi se non si può non si fa, ma il dibattito, insomma, lo abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, si è in realtà spostato su un altro piano. La sua posizione è però chiaramente esce indebolita ed è sotto gli occhi di tutti. Mi sembra assolutamente evidente, e io credo che alla fine dovrà decidere l'unica persona che può decidere, ossia il Premier Conte, sulla base ovviamente però, ed è fin troppo banale dirlo, di report medici, cioè servirà che il comitato tecnico scientifico si pronunci in qualche forma sul come riprendere l'attività sportiva e soprattutto se è possibile riprendere l'attività sportiva. Credo che tutto si basi su quello. Ieri molti presidenti di Serie A erano piuttosto agitati perché si rincorrevano notizie, alcune anche uscite pubblicamente con un post sui social di Nobili di Italia Viva, in cui di fatto si parlava di un imminente decreto fissato tra l'altro per mercoledì prossimo, quindi dopodomani, del governo insomma, che avrebbe portato alla chiusura del campionato proprio su input del comitato tecnico-scientifico. La notizia è stata un pochino smentita poi ieri, diciamo nel pomeriggio, o meglio ridimensionata, che un'intenzione del genere ci fosse sicuramente sabato sera verosimile, molto verosimile. Probabilmente è successo qualcosa, ossia noi abbiamo ricostruito con il collega Franco Vanni che probabilmente c'è stata una pressione da parte dell'altra anima del governo, ossia del PD, per prendere quantomeno tempo per chiedere una decisione che sia il più possibile collegiale dell'intera, appunto, forza di governo magari per dare un'occhiata a cosa succede altrove, perché poi diventa complesso. Ma sì, questo dire che in Italia, ragazzi, non si può fare calcio per un anno e altrove si fa. Noi non possiamo agire da soli. Io sono assolutamente convinto che l'UEFA farà di tutto, e credo che me lo confermerete, per fare le coppe europee ad agosto, perché insomma immaginiamo che lì ci siano delle dinamiche enormi. Noi non possiamo rimanere, non possiamo fare i pazzi da soli, ma non possiamo neanche rimanere gli unici o fra i pochissimi che si fermano. È vero che c'è la decisione francese, che è una decisione pesante, però insomma io credo che abbiamo aspettato tanto, aspettiamo ancora, cioè mettiamoci in una posizione laica di fronte a questa questione qui, cerchiamo di capire come va nelle prossime settimane l'epidemia, che negli ultimi giorni onestamente ha lanciato dei segnali, la curva ha dato dei segnali molto incoraggianti, anche gli stessi virologi si stanno facendo un'idea, è veramente un work in progress continuo. Ieri sera sentivo tutti gli aggiornamenti sul discorso dei sieri, sulle possibilità che il virus in estate sia un po' più morbido, sono solo possibilità. Io credo che sia dovere di chi ha responsabilità nel mondo dell'economia, nel mondo della politica, per disporre tutti gli strumenti per provare a ripartire. Poi ripeto, se non ci saranno le condizioni, amen, e ci mancherebbe altro, e la salute è la cosa che conta di più, ma insomma decidere così. E quindi voi mi confermate che comunque questa, quantomeno questo rumor c'era, no, che si potesse arrivare ma mercoledì? Io ti do la mia lettura, che quella che ho raccolto in una serie di telefonate, è una guerra di trincea in cui ogni minuto guadagnato è un minuto che avvicina la possibilità di creare le condizioni perché riparta il campionato. Non so Matteo che cosa ha raccolto, ma insomma l'immagine è questa. Sono molto d'accordo con entrambi. Il tema della UEFA è ovviamente centrale, anche perché la UEFA, ricordiamo, che ha già rinunciato a una manifestazione come l'Europeo, che da sola vale probabilmente 3 anni di fatturati di prodotto, diciamo, economico delle coppe europee. Quindi già rinunciare, rinviare l'Europeo al 2021 è stato indubbiamente un sacrificio. Rinunciare anche alle coppe europee lo sarebbe doppio, triplo. In più c'è la Germania, e intorno a cui credo ruoti probabilmente l'intero movimento europeo, perché se mercoledì, e non credo che quindi quella data di mercoledì che citava Pierluigi poco fa fosse casuale, credo che sia casuale, ecco, cioè mercoledì si aspetta che la Merkel dica se la Bundesliga potrà ripartire oppure no, credo che se dovesse arrivare un parere positivo sarebbe complicato per la Serie A magari un'ora dopo, 2 ore dopo, ma anche solo il giorno dopo dire no, noi non ripartiamo, quantomeno perché sarebbe, non so, anacronistico. Bisognerebbe spiegare veramente bene perché in Germania si può ripartire e qui no, perché sono più bravi, perché ci sono condizioni diverse, perché marcano meno sui calci d'angolo, non lo so. No, ma il tema, questa cosa è fondamentale, perché io mi ricordo che ogni tanto dovevo ricordare a mia ex fidanzata di tre fidanzamenti fa che io lavoravo, il fatto che il mio lavoro fosse un piacere, che fare una telecronaca di una partita di calcio sia un piacere, non toglie il fatto che sia anche un lavoro. E qui è un po' lo stesso discorso. Cioè, se il calcio italiano, scusate l'esempio autoreferenziale, però il concetto è questo: se il calcio italiano dovesse perdere il treno e tutti gli altri giocano, quasi tutti gli altri giocano, non è soltanto il fatto che poi le nostre squadre saranno meno competitive e perderanno le partite d'Europa, anche chi se ne frega di questo, è un fatto di sistema Italia. Esattamente come esiste la competizione nel mondo dei tubi, nel mondo dell'agroalimentare, moda, nel mondo delle energie, esiste anche questo. Quindi devo fermare perché c'è la borsa, a proposito di competizione, ma tanto con te ci ritroviamo. Saluto Matteo Pinci, grazie Matteo, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. È inutile che ci scrivete, ci sono Francia, Olanda e Belgio. Il Belgio non ha ratificato, deve farlo da un mese, continuano a rinviare la data dell'assemblea che ratifica, probabilmente hanno capito che è bene aspettare un attimo. Segnalo che in Francia oggi c'è un'intervista del presidente del Lione che ha detto che farà di tutto perché si torni indietro, perché, parole testuali, due punti aperte, virgolette, ci stiamo impiccando con le nostre mani, e questo è lo stato dell'arte. C'è la borsa, 800 24 00 24. Torniamo con Julio Velasco. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, vi scandalizzate che non c'è ancora un protocollo? Ma non ce l'hanno per le scuole? Ma secondo voi non c'è una strategia, una programmazione per superare questa crisi in nessun settore italiano? Sei pronta? Mi sa che oggi dobbiamo ripartire dalle basi e dopo 6 settimane mettiamo bene in posizione le braccia. Tipo sforanoso? Sì, così, ho la testa in mezzo, piega adesso bene le gambe. Ok, mi sembra che la posizione ci sia. Adesso concentrati. 3, 2, 1, via! Mi sa che non torna più su. Questa era Federica Pellegrini, questa mattina al Centro Tecnico Federale di Verona. Saluto Giulio Velasco, buon pomeriggio, è un piacere. Buon pomeriggio a voi. Allora, c'è Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, Giulio Velasco che è direttore tecnico del settore giovanile della Federvolley, e adesso parliamo della pallavolo che settimana scorsa, facendo arrabbiare Velasco e non solo, è stata messa in cima alla lista degli sport più pericolosi, più a rischio contagio coronavirus. Prima però vorrei chiedere a Giulio Velasco, che soprattutto è un grande uomo di sport, che idea si è fatto del dibattito che sta accompagnando la fase 2 dello sport? Ma è un dibattito certamente complesso, come tutto quello che riguarda questa emergenza. E credo che viviamo un momento di grande confusione, molte volte non si aiuta a chiarire, no? C'è il virologo tale, l'esperto quell'altro, ognuno dice la sua, adesso l'ultimo ha detto che a giugno scomparirà il virus, tutti con curriculum importante, la gente comune non sa che pesce pigliare, perché c'è il comitato scientifico del governo che si suppone che sono i più grandi esperti, poi ognuno dice la sua, e questo succede un po' dappertutto. Credo che ci vorrebbe un po' più di spirito di corpo, di serietà, di capire che non tutte le persone leggono 3 ore al giorno del tema, e anche leggendo 3 ore al giorno uno finisce più confuso che non leggendo niente, e con lo sport a volte succede lo stesso. Poi c'è molta descrizione della situazione e poche proposte, perché la proposta non può essere stiamo chiusi un anno, e non può essere nemmeno adesso che mi lasciano uscire faccio tutto, no? A volte si passa da un estremo all'altro, a volte con atteggiamento un po' da adolescenti, no? Mio papà non mi compra l'ultima PlayStation, che cattivo è mio papà, i miei amici ce l'hanno. Oppure mio papà non mi lascia uscire, adesso che mi lascia uscire io mi ubriaco, mi fumo un spinello e faccio le 4 del mattino. O sea, non stiamo in questa situazione. Sì, lasciamo ai ragazzini arrivarci in maniera un po' più matura, anche credo al dibattito se sia o no da privilegiati chiedere di poter ripartire. Riguarda il calcio, ma riguarda in generale anche gli altri sport, anche Federica Pellegrini, anche insomma tutti quelli che in questo 4 maggio hanno dovuto alzare la mano e dire vogliamo ripartire, e spesso vengono visti, se fanno parte dello sport o del mondo del calcio a maggior ragione, come dei privilegiati. Ma secondo me il tema del calcio è un tema particolare, perché il calcio, oltre a uno sport, è una grande industria. Quindi il calcio quello che chiede è che si possa giocare. È diverso, è una discussione diversa. Il calcio sta chiedendo di iniziare allenamenti per poter giocare e finire il campionato, quindi è un tipo di discussione. Un'altra cosa è poter allenarsi, ma questo c'è un ragionamento che a volte non capisco, no? Credo che si possa dire che il virus c'è oggi come c'era 2 mesi fa, ma se questo è vero, ed è vero, è probabile che il virus ci sia anche a settembre, ottobre, a novembre, anzi quando comincia il freddo ci sarà anche. Allora qual è la prospettiva? Non ci sarà scuola neanche tutto l'anno prossimo? Non ci sarà sport tutto l'anno prossimo, né università, né niente? Allora bisogna fare dei programmi, una cosa che sia un stadio pieno, un palazzetto pieno, un altro che non si possa allenare o anche giocare a porte chiuse. Cioè, dobbiamo fare delle proposte, perché il contagio zero non esisterà, ma non esisterà neanche se non facciamo queste cose, però che si possa tornare piano piano alla vita non di prima, poi la vita di prima non l'avremo per molto tempo. Io bisogna avvicinarsi alla normalità, avvicinarsi però, e accontentarsi. Avvicinarsi, non so se alla normalità, ma avvicinarsi, cioè fare attività. L'essere umano non può chiudere tutto, ma non solo per questioni economiche, se anche i bambini non possono stare chiusi tanto tempo, allora bisogna che secondo me ci abituiamo a certe, noi abbiamo delle abitudini che non siamo nemmeno consapevoli, ma che fino a ieri non erano così, no? Cioè, noi arriviamo da fuori, anche se c'è il coronavirus, prima di andare a mangiare ci laviamo le mani, che non lo fa, e le mamme le dicono a tutti i bambini che stai lavando le mani, ma questo non era così comune alcuni anni fa. Per alcuni può essere 40, 50, 60, per me 3 secoli. E dovremmo avere queste abitudini, no, che siano normali finché si arriva a una soluzione. Noi teniamo conto che per esempio in Giappone, che io sono andato almeno 15 volte per la pallavolo in Giapone, quando uno ha il raffreddore, non l'influenza, il raffreddore, si mette la mascherina in Giapone per non contagiare gli altri. quindi saranno nuove abitudini che l'essere umano ha una grande capacità di adattamento, che dovremmo adoperare ovunque, non solo nello sport, per tornare a fare attività. Pier? Sì, no, ma io sono d'accordo, ascolterei per ore il professor Velasco, ho letto fra l'altro anche un suo richiamo agli anziani, oggi appunto è il giorno di Superga ed è anche il giorno in cui insomma riparte la vita dopo una cosa terribile che ha spazzato via un'intera generazione di persone un po' anziane, quindi il richiamo alla memoria è fondamentale, il resto è completamente condivisibile. Io credo che esista anche qui, per non essere ipocriti, la differenza tra virgolette fra la Serie A, la Champions League e il calcio minore, è una differenza anche tecnicamente di poter avere determinati requisiti, determinati standard, proprio perché serviranno dei protocolli speciali, serveranno delle sanificazioni speciali, e questa cosa qui magari non riesce a ottenerla subito in tutto il paese, no? Però non significa che si debba fermare chi magari può farlo. No, ma assolutamente, e soprattutto il tema della convivenza col virus, cioè oggi noi cominciamo, il 4 maggio, cominciamo una partita completamente diversa, dove dovremmo usare la nostra intelligenza, la nostra capacità di adattamento, la nostra flessibilità, anche un po' di culo che ci vuole nella vita, sicuramente, perché se il virus dovesse un pochino ingentilirsi, come è possibile, non è certo, ma è possibile, ci farebbe una cortesia, una mano. Ci aiuterebbe, però è chiaro che non è che possiamo pensare di arrivare al giorno del rischio zero, perché il rischio zero purtroppo non ci sarà mai, il rischio zero c'è in qualsiasi attività umana, dobbiamo imparare a vivere, a convivere con questo virus, anche perché poi insomma, c'è per esempio chi dice che d'estate sarà meno, è più probabile che d'estate anche possa... se non ci sono controprove, lo diciamo perché... no, non ci sono controprove, però voglio dirti io ho paura di ottobre, non sto scherzando, no, ma io ho anche paura di domani mattina, io ho paura che non si decida in maniera pragmatica, ragionando su un quadro complessivo. Scrive un amico da casa, ma in una delle tante task force non si poteva mettere Velasco, che fa discorsi di buon senso. Io credo che avrebbe rifiutato, perché è giusto che nelle task force poi ci stia chi deve dare tutte le indicazioni che deve dare. Ho letto che il Politecnico di Torino, autore dello studio secondo cui la pallavolo è lo sport più pericoloso d'Italia, pericoloso nel senso a rischio contagio coronavirus, è un po' tornato sui suoi passi, Velasco. In realtà lì c'è stato anche un po' dei malintesi, diversi malintesi, perché allora in questo lavoro fatto del Politecnico di Torino, nel 404 pagine, che già questo, insomma, voglio vedere chi lo legge, 404 pagine, no? I politici eccetera corrono, non dormono 4 ore al giorno, figuriamo. Però in realtà loro, la università, ha scritto 55 pagine, perché io ci ho guardato 55 pagine, le quali de cose nuove saranno 40, perché altre sono cose informative che già si sapevano. Le altre sono, la 339, sono gli allegati che le federazioni hanno presentato, a un questionario, dato che come una autocertificazione soggettiva. Perché se a me mi chiedono che pericolosità ha lo spogliatoio, intanto non so di quale spogliatoio stiamo parlando, no, se una sì, di Serie A, un po' generico, una dei bambini, sì. Ma se lo riempio io, magari metto un numero, se lo riempie il CT della Nazionale Blengini o Mazzanti del Femminile, magari metto un altro numero, siamo amici, parliamo, ma è una cosa molto soggettiva, perché non siamo abituati a mettere un punto, no? un numero per queste cose qua. Per cui ogni federazione l'ha fatto a modo suo, bene, male, non lo so. È stato pubblicato anche quello dentro del documento, per cui lì non è che il Politecnico ha detto la pallavolo è lo sport più pericoloso, sennò che poi guardando i punteggi qualcuno ha detto quello più pericoloso risulta la pallavolo, il che è una cosa ovviamente assurda, no? Perché proprio uno sport che non ha contatto, che sia più pericoloso lo sport di contatto. Però l'intenzione è un controsenso, è uno dei tanti paradossi che abbiamo letto, ma non solo, ma non intorno al mondo dello sport, né dell'università e tantomeno del CONI, che aveva incaricato questo lavoro per creare, diciamo, un protocollo di prevenzione per tutti gli sport. Quindi possiamo rasserenarci che la pallavolo è rientrata, diciamo, laddove doveva stare. Guarda, questo no. Non mi metto nemmeno a dimostrarlo, perché è così ovvio che perfino il macellaio, quando è andato mia moglie a comprare carni ieri, le ha detto: ma come è che scrivono questo, no? Cioè, Quello che però a volte, magari la mia reazione molto forte, qualcuno non l'ha capita, è che per noi quello rappresentava un danno enorme, enorme, perché noi non possiamo andare a parlare con ogni genitore delle migliaia di ragazzine e ragazzini che giocano a pallavolo. Loro leggono quello, esce sul giornale e dopo noi dobbiamo dire no, andiamo a fare pallavolo. E no, ma siete lo sport più pericoloso. Torno al discorso con cui ho aperto. La ragionevolezza, il momento della ragionevolezza, non si possono dire, scrivere cose, soprattutto se si hanno dei ruoli istituzionali. Vale anche, io non è che ce l'ho su, però vale anche per il ministro, che non può scrivere le cose che ha scritto anche ieri sera, perché poi ci sono, a ragione Velasco, bisogna andare dalle famiglie, bisogna andare dagli sponsor, bisogna fare mille cose e già la situazione è complessa così, no? No, Giulio. Sì, è molto complessa così. A me quello che mi ha stupito, e le ho detto a chi di dovere, è che ok, c'è stato un malinteso, esce sulla Gazzetta dello Sport questa valutazione. A quel punto, qualunque sia stato il malinteso, non dovevo saltare io sulla sedia, solo tutti dovevano saltare sulla sedia di fronte a un malinteso. Ma anche quando sono arrivati i dati della federazione, se io vedo che c'è una discordanza enorme, dico, fermi tutti, questi dati non li possiamo considerare. Certo, non sono scientificamente validi. La pallavolo non può essere più a contagio rischio del rugby. Faccio un esempio di uno sport di squadra molto più di contatto, o dello stesso calcio, per intenderci. Esatto. Che ho praticato. Dobbiamo fermarci perché c'è, sì, perché c'è il traffico. Voglio salutare e ringraziare Giulio Velasco. Grazie Giulio, alla prossima. Ciao, Giulio. Grazie ciao. A voi, grazie. Ciao. Allora, c'è il traffico, poi torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Sappiamo anche noi che nella pallavolo c'è il muro, dove gli atleti sono vicini, ma ripeto, immaginare che sia lo sport a maggior rischio contagio è qualcosa che sfiora l'irragionevolezza. Pietro da Chieti, 800 24 00 24. Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Bene, io vorrei sottoporre un'idea a vostro parere. Riprendendo quello che ha detto il signor Pardo proprio qualche secondo fa, cioè che a ottobre lui ha paura, come c'ho anch'io. Allora, quindi non c'è nessuna evidenza matematica che si possa rigiocare. La mia idea è questa. Perché anziché, si fa il contrario, cioè che anziché chiudere questo campionato, non si chiude il prossimo. In modo tale che settembre, ottobre, veramente con pienissima sicurezza, almeno si spera, si ricomincia senza giocare due o tre partite a settimana, a domenica, così le coppe ogni domenica. Cioè, quindi la tua idea, Pietro, è che ci si ferma adesso per ripartire dopo. Però se abbiamo paura di ottobre, sicurezza. Abbiamo paura di ottobre, dovrebbe valere il contrario. Sono abbastanza d'accordo con te, Pier. No, io credo questo, che non abbiamo ovviamente certezze. Io credo nella scienza. Ci credo tantissimo, penso che tutto il mondo stia lavorando per trovare vaccini e farmaci. Quindi è chiaro che ogni giorno, il discorso che ci facevano all'inizio i vari virologi era giustissimo, era una corsa contro il tempo, perché rallentare la curva significava salvare vite umane, è stato fatto, con qualche errore, con qualche cosa fatta meglio, ma è stato fatto. Siamo rimasti chiusi in casa ed è giusto che continuiamo ad avere la massima attenzione perché il virus c'è e questo vale per tutti, da oggi che c'è qualche libertà in più. Detto questo, la vita deve ripartire, perché noi possiamo pensare che sospendiamo il mondo fino al giorno in cui non ci sarà più un contagio, non in Italia, ma nel mondo, perché poi se vuoi ricominciare a viaggiare deve essere completamente debellato. Allora, è chiaro che bisogna trovare un equilibrio, è difficilissimo, io non invidio il governo, non dico che sia facile. Bisogna minimizzare il rischio, è quello che va fatto, ma va fatto nello sport. Però non si può, secondo me, avere un comportamento che sia talebano da una parte o dall'altra, cioè dire bisogna giocare a tutti i costi perché il business è troppo importante, ma al tempo stesso secondo me è sbagliato anche dire ma cosa vogliono chiudete questi del tutto. Calcio, chiudete tutto, bisogna provare, attrezzarsi, provare. Fare in modo Latina. Che gli atleti si allenino e poi si vedrà, fra tre settimane, quattro settimane vedremo che situazione avremo in Italia e nel mondo. Angelo, Pronto? Vai. Buongiorno. Quello che secondo me dovete fare molta chiarezza e differenza tra lo sport professionistico e quello dilettantistico. Le società professionistiche hanno a disposizione campi, palestre, piscine, tutto il resto dello sport dilettantistico non ha a disposizione questo. I gestori dei campi, delle palestre sono diversi dalle associazioni, quindi come mettere d'accordo con le due esigenze? Io credo che sia abbastanza semplice. Non ho sentito nessun dirigente del calcio dilettantistico, nemmeno quello che li rappresenta tutti, che abbiamo ospitato qui qualche giorno fa, alzare la mano e dire: se non ripartiamo noi non deve ripartire nemmeno la Serie A. Anzi, consapevole che se riparte la Serie A è più facile che a pioggia continuino ad arrivare soldi anche ai piani sotto. Ma almeno è il discorso che solo facevo, tre minuti fa, e sono d'accordissimo con l'ascoltatore. Cioè, anche qui non deve essere... Cioè non è una brutta cosa dire che esiste una differenza fra Federica Pellegrini e il nuotatore amatoriale. Esiste una differenza fra un atleta olimpico, un olimpionico e uno che non lo è. Esiste una differenza fra una società di calcio come l'Inter, che ha 5 campi di allenamento, che può fare la sanificazione ogni 2 ore, di Serie D, una squadra o di Serie C. Quindi è ovvio che esiste anche sicuramente un aspetto economico che fa sì che le grandi società, i grandi sportivi del calcio e degli altri sport principali abbiano sicuramente degli sponsor e degli strumenti economici per poter fare tutti gli investimenti necessari per la sicurezza. Non è una vergogna. No, è la fotografia. Fammi salutare Andrea D'Amico. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, ciao Andrea. In tutto questo ieri, ed è il motivo per cui ti abbiamo convocato, purtroppo abbiamo pochi minuti, ma poi torneremo ancora sull'argomento. Ieri ho ascoltato con grande interesse l'intervista di Sky a Fabio Paratici e questo paragone che è stato fatto tra quello che sarà il calciomercato e quello che sono altre esperienze altrove, ad esempio nell'NBA. Perché noi arriviamo verso mesi in cui sarà complesso anche parlare di calciomercato. Che impressione ti ha fatto? Mi ha fatto un'ottima impressione, ma di fatto io lo dimostra anche il suo curriculum vincente, la sua giovane età, è aperto e sa trovare sempre soluzioni intelligenti. Parlava del draft, parlava dei prestiti lunghi e diceva esattamente questo. Questo sarà un mercato magari dove ci saranno più scambi e meno acquisti così to court. Perché comunque quando non ti puoi permettere l'acquisto di una casa, l'affitti, e quindi ci saranno magari tanti movimenti che vengono fatti tra le prime 20 squadre in Europa che si possono permettere quei salari lì, perché non dimentichiamo che il problema non è solo muovere il cartellino di un giocatore che vale tantissimi milioni, ma è anche poi dopo trovare uno che sia capiente per poterlo pagare il salario. Di conseguenza ci saranno magari, a seconda delle esigenze tecniche, tattiche, degli spostamenti, magari rimandando al prossimo anno, se tutto ripartirà, quelle che sono le acquisizioni vere e proprie. E così pure ci sarà un mercato virtuoso, come avevo preannunciato anch'io giorni fa, che riguarda soprattutto i giovani. Cioè quando la Juventus purtroppo dopo Calciopoli ha dovuto ripartire, ha investito valorizzando dei giovani che poi sono diventati dei campioni. Di conseguenza, più facile vedere spendere soldi, dico due nomi, per Tonali e Chiesa che per Pogba. Prendo i due estremi. Sì Giovanni, penso che questo sia un percorso saggio, rivalutare la scorta anche di quello che sta facendo Mancini con la nostra giovane nazionale, il prodotto interno lordo sportivo, per così dire, e soprattutto questi giovani che ha dimostrato da Zaniolo a Chiesa a Tonali di non aver nulla di meno di quelli che sono magari giocatori che vengono dall'estero. Tante volte noi siamo esterofili, in questo caso dobbiamo riscoprire la nostra italianità anche sotto il profilo dei giocatori. Pier, curiosità? No, la curiosità è numerica, è quantitativa. Lui, Andrea, ti sei fatto un'idea sull'impatto percentuale sugli stipendi dei giocatori, sulle provvigioni, sui valori sulle dei cartellini. C'è un numero che hai in testa? Meno 8, meno 10, meno 20? No, io penso che no, è comunque un disastro solo in questi primi mesi. E la mia preoccupazione è un po' per tutto il movimento economico, per tutta la socialità e tutto, e perché questa è una crisi che coinvolge ovviamente tutti i settori e arriva anche al calcio. È su come si ripartirà, quando si ripartirà, perché per me i veri problemi non sono soltanto risolti con la ripartenza, perché non so quanta gente andrà in vacanza, come andranno in crisi tutte le strutture alberghiere, ricettizie, turistiche, i ristoranti. Cioè io penso che o si tornerà presto, vorrei svegliarmi con la notizia della comunità scientifica che possa dire quasi world wild, è passato tutto, possiamo tornare alla normalità. Perché io penso che invece tornare a vivere con mascherine, guanti, distanze sociali non farà ripartire il sistema e quindi la ricaduta sarà pesante non solo per il calcio ma per tutti i settori del vivere civile e dell'economia. Certo, quindi noi ci occupiamo di pallone, peggio, di sport, ma sarà molto peggio di quello che noi possiamo pensare. E forse anche in questo momento facciamo fatica a calcolarlo. Grazie ad Andrea D'Amico, grazie Andrea. Grazie Giovanni, ciao Pier, a presto. Ciao Pier, anche a te. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in assistenza, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato in regia. 71 anni sono passati dal giorno della tragedia di Superga, noi vogliamo celebrarlo così. Quel giorno di pioggia, lo schianto nel cielo che spense in un lampo il grande Torino. Quel lampo che porta il ricordo per chi non c'è più. Il giorno di pioggia io spero non torni mai più. Quel giorno di pioggia io credo non tornerà più.